sono stata iscritta nella lista degli indagati nonostante tutto e nonostante la mia totale estraneità a tutto. Sono esterrefatta, io per prima, avrà visto che sono stata inclusa nella, sono chiuse le indagini, mi hanno messo come estrema razza, alla fine ci sono finita anch'io. Lei ha raccontato cose di cui lei stessa è stata testimone diretta, vuol dire quelle vacanze, semplicemente rispetto alla... Allusione non anche dei rapporti che c'erano anche tra suo marito e il presidente Formigoni, giusto? Sì, che era sotto gli occhi di tutti, oltretutto. Ne ho parlato io, ma l'hanno visto dozzine di persone, quindi non è che io abbia accampato e inventato nulla. Vabbè, lei l'ha scritto anche pubblicamente, anche in una lettera al Corriere. Lei ha voluto in qualche modo, come dire, rinfrescare la memoria, diciamo così. Sì, per far vedere che appunto quella cosa mi indignava comunque a me per prima, invece a quanto pare in Italia non paga questo essere onesti.